Ciao, mi chiamo Sabrina. Benvenuti su Cinema Virale. Salve a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Cinema Virale. Oggi parleremo di un argomento abbastanza scottante, la censura. In modo particolare ci concentreremo sulla censura cinematografica. Partiamo dalla sua definizione. La censura cinematografica è il complesso di procedimenti attraverso i quali si attua un controllo preventivo o successivo all'uscita di un'opera cinematografica, limitando o negando la sua proiezione in pubblico. Una delle prime leggi che imponeva la censura come operazione necessaria alla conservazione della morale risale al 1913. Questa legge impediva la diffusione di spettacoli a sfondo sessuale, poiché ritenuti osceni. Nel 1920 abbiamo il Regio Decreto, che fece nascere la prima vera commissione, che obbligava sceneggiatori e produttori a consegnare le sceneggiature prima di tutto alla commissione in questione. La commissione censura, dopo una prima lettura, avrebbe così deciso se permettere la produzione del film o impedirla in partenza. In Italia, ovviamente, l'avvento del fascismo sancì la nascita di nuove imposizioni per quanto riguarda il concetto di censura. Il cinema, come diceva Mussolini, diventa l'arma più potente e di conseguenza diventa l'arma stessa del duce. Analizzando il periodo storico che parte dal 1929 fino alla fine del secondo conflitto mondiale, notiamo che ci scontriamo con vari tipi di censure. Mussolini, anche grazie alla fondazione del Luce, usa il cinema come strumento di propaganda, come in seguito faranno Stalin e Hitler. Queste dittature quindi impediscono ai registi di mostrare dissenso verso il partito, adulterio, scene sessualmente esplicite ed effusioni fraintendibili tra persone dello stesso sesso. Se ci spostiamo un attimo negli Stati Uniti, terra di democrazia, possiamo però notare che ci scontriamo con un altro tipo di censura, mascherata da un noto codice della moralità, chiamato Codice Hays, entrato in vigore nel 1934 e rimasto attivo fino al 1967. Questo Codice Hays della moralità cosa proibiva? Il nudo e le danze lascive, la ridicolizzazione della religione. I ministri del culto non potevano essere rappresentati come personaggi comici o malvagi. La rappresentazione dell'uso di droghe fu assolutamente proibita, come il consumo stesso di alcolici, dato che ci troviamo in pieno proibizionismo. I metodi di esecuzione di delitti, per esempio l'incendio doloso, il contrabbando, non potevano essere rappresentati, o almeno non in modo esplicito. Le allusioni alle varie perversioni sessuali, che includeva anche l'omosessualità, battute sulle malattie venere, come lo fu anche la stessa rappresentazione del parto. La sezione del linguaggio bandì varie parole e locuzioni offensive. Le scene di omicidio dovevano essere girate in modo tale da scoraggiarne l'emulazione nella vita reale, e assassini brutali non potevano essere mostrati in dettaglio. La vendetta ai tempi moderni non doveva apparire giustificata. La santità del matrimonio e della famiglia doveva essere sostenuta. I film non dovranno concludere che le forme più basse di rapporti sessuali sono cose accettate o comuni. L'adulterio, di conseguenza, e il sesso illegale, per quanto si riconoscesse potessero essere necessari per la trama, non potevano essere espliciti o giustificati e non dovevano essere rappresentati come un'opzione attraente. Le rappresentazioni di relazioni tra persone di razze diverse erano proibite. Scene passionali non dovevano essere introdotte se non necessarie per la trama. Baci eccessivamente lunghi e lussuriosi vanno evitati, assieme ad altre trattazioni che potrebbero stimolare gli elementi più bassi e grossolani. La bandiera degli Stati Uniti d'America deve essere trattata rispettosamente, così come i popoli e la storia delle altre nazioni. La volgarità, e cioè soggetti bassi, disgustosi, spiacevoli, sebbene non necessariamente negativi, dovevano essere trattati entro i dettami del buon gusto. Temi come la pena capitale, la tortura, la crudeltà verso i minori e gli animali, la prostituzione e le operazioni chirurgiche dovevano essere trattati con uguale sensibilità. Si può dire che la censura inizi un pochino ad attenuarsi a livello soprattutto di cinema occidentale dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e con l'inizio della Guerra Fredda. Nel 1947, con l'inizio della Guerra Fredda, però accade qualcos'altro, nel senso che soprattutto negli Stati Uniti la censura assume nuovamente sfumature politiche, in modo particolare per via della decisione del Congresso degli Stati Uniti d'America di introdurre le note blacklist. Cos'erano le blacklist? Erano delle liste nere per l'appunto in cui venivano inseriti sceneggiatori, registi, produttori, scrittori e tutti coloro che appartenevano al mondo del cinema. Venivano inseriti in queste liste, sottoposti a processo, in modo da poter gestire la possibile influenza dettata dalla propaganda comunista. Di conseguenza, tutti gli anni 50, gli anni che per noi sono, diciamo, indicativi di un tipo di commedia americana brillante e anche di un tipo di noir differente da quello degli anni 30, in realtà si scopre essere una grande strada che porta gli sceneggiatori verso la prigione se trattano determinati temi che possono essere interpretati come comunisti. Un tema fra questo può essere anche la fratellanza e l'unione tra persone. Uno dei casi eclatanti fu Dalton Trumbo, di cui è stato fatto anche un film qualche anno fa. Dalton Trumbo è noto per aver scritto la sceneggiatura di Vacanze Romane, diretto da William Wyler con protagonista Audrey Hepburn e Gregory Peck. E Vacanze Romane fu scritto proprio dal carcere, poiché lui era già stato incarcerato e William Wyler fu l'unico regista in quel momento, in quel 1953, ad assumersi la responsabilità, in un certo senso, di portare sul grande schermo il contenuto, la sceneggiatura di una persona purtroppo inserita nella blacklist. Ovviamente nei titoli di coda non vedrete scritto sceneggiatura di Dalton Trumbo, ma vedete un prestanome. Dopo, con la caduta della commissione d'inchiesta e la fine della Guerra Fredda, tutti i personaggi che hanno contribuito sotto falso nome ad arricchire la Hollywood di quegli anni, fortunatamente potranno vedere nuovamente il loro nome sul grande schermo. Quindi la censura, come misura di contenimento dell'arte, sì, non dico nulla di nuovo. Però la censura in quegli anni, e in parte anche adesso, assume un ruolo particolare, quello di voler creare un popolo a sua misura, a misura del governatore del momento. Non importa se si parla di dittatura, di democrazia, in ogni caso la politica ha una grande influenza su un determinato cinema o su una determinata televisione, soprattutto se parliamo di esempi come la Hollywood e quindi non le case indipendenti in Italia, se prendiamo la Rai o la Mediaset. Infatti, per un altro esempio pratico di censura lo abbiamo nel 1966 con l'arrivo in Italia del film Persona di Ingmar Bergman. Allora, Bergman è stato un personaggio che in Italia si è sempre un po' scontrato con la censura, sin dai tempi di Monica e il Desiderio, in cui abbiamo per la prima volta un nudo integrale femminile che corre libero tra i fiordi. E in Italia, infatti, è arrivato con un po' di anni di ritardo, la commissione d'inchiesta e la commissione censura si è battuta per impedire l'arrivo di questa pellicola, poi alla fine ce l'abbiamo fatta. Allora, noi adesso, per chi ha visto Persona, si può chiedere perché censurare Persona? Nel senso, non ci sono scene di nudo integrali. Sì, c'è una celata attrazione tra le due protagoniste, ma non sfocia mai in qualcosa di fisico e nemmeno di dichiarazioni d'amore vere e proprie. Quindi, perché? Se noi guardiamo Persona in lingua originale, magari con i sottotitoli in inglese, notiamo che la scena in cui Alma, il personaggio interpretato da Bibi Anderson, si confida in questo lungo monologo, si confida a Elizabeth Vogler, interpretata da Liv Ullmann, parla di un'orgia avvenuta in spiaggia con una sua amica e altri due ragazzi che le stavano osservando. Bergman ci tiene a specificare che questi ragazzi fossero minorenni, gli dà 16-17 anni d'età. Con la traduzione italiana, arrivata grazie al colpo d'ascia della commissione censura, vediamo che i personaggi in questione vengono etichettati come ragazzi di 21 anni, tra i 20 e i 21 anni. In questo modo avevano superato i 18 anni di età e potevano essere ritenuti solamente dei giovanotti ai tanti che riuscivano a sedurre delle signore più grandi di loro. Quindi, in un certo senso, ci chiediamo anche come abbia fatto Lolita di Kubrick ad arrivare qui. O forse la domanda vera è perché una donna più grande d'età viene ritenuta scandalosa se fa sesso o si concede a un ragazzo magari di 16 anni, mentre un uomo di 50 anni che seduce una dodicenne viene ritenuto arte perché c'è Kubrick alle spalle o perché Humber Humber è un uomo? Perché ragazzi, Tra autori non c'è paragone, Kubrick e Bergman sono due perni della cinematografia mondiale, quindi non c'è nemmeno, non ci possiamo nemmeno nascondere dietro, ma stiamo parlando di un autore importante. Soprattutto perché la censura negli anni 60 in Italia inizia a perdere colpi, quindi cerca di calcare ancora di più la mano. Prendiamo per esempio La Ciociara di Vittorio De Sica, la famosa scena dello stupro in chiesa. De Sica insieme a Moravia e Zavattini decisero di alzare di 2 anni l'età di Rosita, interpretata da Eleonora Brown, quindi da 11 a 13-14 anni. Tuttavia la scena dello stupro era necessaria, quindi dovevano mantenerla nella pellicola. Uno stupro avvenuto in chiesa. E infatti il film, quando arrivò nelle sale, fu vietato ai minori di 18 anni. E questo in un certo senso scoraggiò anche i più giovani a vedere il film, finché poi hanno recuperato con l'avvento della televisione. Quindi perché dico che gli anni 60 sono un periodo in cui la censura inizia a perdere colpi? Semplicemente perché negli anni 60, tra il boom, la Beat London, il 68... tante fondamenta di una società retrograda iniziano a venir meno, quindi a questo punto anche la censura inizia a venir meno, non ci scandalizza più a mostrare il sesso, l'omosessualità, i delitti, il cinema più cruento. Infatti negli anni 70, soprattutto in Italia, abbiamo un grande periodo per quanto riguarda il cinema horror, Dario Argento, Lucio Fulci. Quindi i costumi si fanno da parte per dar spazio a dei costumi nuovi, costumi nuovi che vengono a loro volta criticati. Ragazzi, obiettivamente, se la commissione censura fosse stata ancora così forte, noi film tipo Il portiere di notte, la trilogia della vita di Pasolini e l'inizio della trilogia della morte, mi riferisco a Salò e 120 giornate di Sodoma, non avremmo mai potuto vederli sul grande schermo. È vero, Salò ha subito, diciamo, delle modifiche, Pasolini aveva pensato a un finale diverso rispetto a quello che vediamo, però ci è arrivato un film, una pellicola, con una grande critica morale a tutte e due i periodi storici che in un certo senso ci stavamo lasciando alle spalle, sia che si trattasse del Novecento, sia che si trattasse del secondo Novecento, quindi il periodo in cui Pasolini viveva. Un altro film che fu censurato, qui siamo nel 1979, è Avere 20 anni di Fernando Di Leo. Di Leo è un regista pugliese che viene dal poliziesco, dal gangster movie, aveva lavorato con Klaus Kinski. Nel 79 gira Avere 20 anni con due stelline dell'epoca che sono Lilli Carati e Gloria Guida e si trova davanti alla commissione censura che gli taglia completamente il finale e gli fa girare tutto. Il finale cos'è? Lo stupro e l'uccisione delle due protagoniste da parte di un gruppo di maschi mafiosetti che vedono nel rifiuto di queste donne un rifiuto verso la loro mascolinità così possente e decidono di punirle con lo stupro e l'uccisione. Una scena molto, durante questa sequenza intera, c'è cioè una scena molto particolare in cui il personaggio di Lilli Carati viene praticamente impalata dalla vagina con un tronco. Questa scena fu assolutamente, fece proprio saltare sulle sedie i commissari di censura. E quindi Di Leo filmò questo, non so nemmeno come definirlo, questo finale alternativo che non dà nemmeno un finale serio alla storia, di queste due ragazze che rincontrano il direttore della comune dove stavano e partono per una nuova avventura. E in questo modo capite bene che il film perde tutto il suo senso, tutta la sua critica politica e sociale. La domanda che ci potremmo porre adesso è: ma quindi oggi la censura esiste ancora? Esiste ancora la commissione? Sì, è più lieve, ma esiste. E soprattutto prende meno di mira il cinema e attacca di più la televisione. In modo particolare la Rai. Perché questo? Perché se prendiamo i canali ex Finivest, oggi Mediaset, parliamo di canali privati, c'è Berlusconi dietro, e lì ci sono problemi legati a un altro tipo di politica. La Rai invece è sotto il dominio del Parlamento, quindi deve stare a delle leggi di governo. Il direttore Rai viene assunto anche grazie a una volontà governativa e di conseguenza determinate cose non possono essere mostrate. Abbiamo vari esempi, tipo quando uscì I segreti di Brokeback Mountain, Rai 2 tentò di proiettare in prima serata nel 2008 il film e tagliò tutte le scene di sesso e di baci tra i due protagonisti, quindi sembrano solo due cowboy un po' allegrotti a cui piace fumare e bere insieme, tagliando così ovviamente tutta la storia d'amore, che è anche, come dire, il perno centrale di tutto il film. Nel 2011, stavolta andiamo in Mediaset, la Mediaset, per seguire una politica di destra, ha censurato un bacio gay presente nella serie di Gossip Girl. Sempre nel 2011, Rai 1 ha censurato l'episodio numero 125 della serie televisiva tedesca Un ciclone in convento, perché trattava un matrimonio omosessuale. E anche nel 2016, per arrivare in un momento più vicino a noi, nel 2016, nella prima messa in onda sulla TV pubblica italiana della serie Le regole del delitto perfetto, la Rai nuovamente ha censurato tutte le scene omosessuali, quindi scene omosessuali, scene di sesso troppo esplicite ancora oggi non vengono mostrate a 360 gradi. Un altro esempio può essere L'amica geniale, la scena in cui Lenuccia viene sessualmente molestata dal padre di Nino, e noi abbiamo visto nell'episodio andato in onda su Rai 1 un approccio iniziale di questa violenza, mentre gli americani, che hanno visto L'amica geniale grazie al canale il canale via cavo HBO, hanno visto la sequenza completa, quella di una violenza ai danni di una ragazzina minore. Quindi ragazzi, questo era un po' per farvi capire come funziona la censura, cosa fa rizzare i capelli alla censura. E ancora una volta, questo è un episodio introduttivo, perché poi ci sarà un dibattito con un personaggio a me molto caro, un mio amico, è un personaggio abbastanza noto a Bologna e un po', diciamo, nel nord Italia. Non vi faccio spoiler, lo incontrerete alla prossima puntata. E infatti vi saluto, vi chiedo di seguirvi sui nostri canali YouTube, Facebook e ora siamo anche su Twitter. E ovviamente seguite tutti gli episodi di Cinema Virale su Spreaker. Alla prossima puntata!